Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Nel 2014 l'Italia potrà disporre di 16 miliardi di euro di investimenti pubblici aggiuntivi grazie all'uscita dalla procedura europea di infrazione deficit PIL e al consistente arrivo di fondi strutturali europei. Il conto lo ha fatto questa mattina il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Amministratore delegato cercasi, la Commissione europea infatti cerca un nuovo amministratore delegato per l'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, dopo le dimissioni di Catherine Gesselin-Lanel, che ha accettato l'incarico di direttore generale al Ministero dell'Agricoltura di Parigi. La notizia arriva pochi giorni dalla diffusione del rapporto annuale riferito al 2012, decimo anniversario della sua istituzione, un traguardo importante, non scontato, dice Alberto Spagnolli, capo ufficio esecutivo di EFSA. Lo sentiamo al microfono di Maria Luisa Pezzali. EFSA è un'organizzazione ancora giovane, ma comunque che comincia ad avere il suo peso, e questo per noi è veramente un grosso traguardo. Abbiamo tanti dossier, tantissimi soggetti, sicuramente l'etichetta salutistica è stato un dossier estremamente impegnativo per noi, è stato utilizzato dalla Commissione europea per determinare la lista delle indicazioni nutrizionali che possono adesso essere utilizzate dai produttori. L'ispezione delle carni, un altro dossier molto importante, per poter fare in modo che le ispezioni del futuro vengano basate un po' di più su un'analisi del rischio, aspartame, il bisfenolo A, due dossier che stiamo ancora conducendo e che speriamo di finalizzare verso la fine dell'anno. In un'Europa sempre più allargata, spesso a velocità variabile, gli obiettivi e l'attività di EFSA in questi anni si è rafforzata a livello di condivisione e di supporto europeo? Sicuramente si è rafforzata, i cittadini europei hanno tutti diritto allo stesso livello di protezione, non ci sono cittadini di serie B e cittadini di serie A. Maria Luisa Pezzali che ha intervistato Alberto Spagnoli, lo ricordo, capo ufficio esecutivo di EFSA. E ora parliamo di tecnologia e spazio. È stata completata con successo la prima dimostrazione pubblica di posizionamento tramite Galileo, il sistema europeo di navigazione satellitare. Successo che, ha detto il vicepresidente della Commissione Tajani, testimonia l'efficacia dell'impegno congiunto tra industria e mondo della ricerca europeo. Grazie ai 4 satelliti del sistema attualmente in orbita, appunto per Galileo, è stato possibile ricevere presso il centro spaziale del Fucino il primo segnale di posizionamento, interamente europeo. I consumatori tedeschi, italiani, spagnoli del Regno Unito sono convinti che entro la fine dell'anno ci si possa aspettare una ripresa economica. Tuttavia, nell'Europa orientale le aspettative rimangono stagnanti a un livello molto basso. Sono alcuni dei dati che emergono dal rapporto Più nubi che sole realizzato dalla GfK. La speranza di una svolta si sta affacciando, anche se molto lentamente, in Portogallo e in Grecia, mentre la Francia, che continua a combattere contro la stasi congiunturale, prima di rivedere una crescita della propria economia, dovrà adottare dure riforme. Forse per questo appare oggi il paese d'Europa con le più basse aspettative economiche. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare il concorso fotografico Youth on the Move, dove è stata scattata, promossa dalla Commissione Europea, Direzione Generale per l'Istruzione e la Cultura, l'iniziativa si pone come obiettivo quello di verificare la conoscenza sulla topografia urbana europea. Aperto a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni residenti in uno dei 28 stati membri, per partecipare basta visitare la pagina del concorso e tentare di indovinare dove è stata scattata una determinata fotografia. Il concorso è a cadenza settimanale e ogni lunedì viene sorteggiato il vincitore tra chi ha dato la risposta corretta. Per informazioni e per partecipare, facebook.com/youthonthemoveeurope. E naturalmente tutto su radio24.it. Filippo Aureggi in regia, Gigi Donelli al microfono vi salutano. L'appuntamento naturalmente è per domani alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.